Diamo il buonasera in questo spazio di Tabula Rasa a una redattrice di Radio Onda Rossa. Ciao Marta. Ciao a tutte e tutti. Allora, con te oggi andremo a parlare di un libro che è uscito recentemente. Rimaniamo sul tema carcere, che è molto centrale nella trasmissione dedicata ai saggi di questa sera. Il libro è Le prigioni rendono la società più sicura e altri 20 miti da sfasare sulla incarcerazione di massa, uscito per Mimesis, scritto da Victoria Law. È un libro che abbiamo letto e che ci è piaciuto, e ci è piaciuto, ora ve lo andremo a spiegare insieme a Marta perché prima di tutto, lo dicevamo poco prima di iniziare, è un libro molto comprensibile che passo passo va davvero a smontare tutta la retorica che ha accompagnato, no, la carcerazione preventiva di massa, soprattutto riguardo alla società americana, perché lei di quella parla, ovviamente, essendo un'autrice americana che ha anche un passato in carcere quando era adolescente. Sì, Vai, Marta. allora, innanzitutto sì, è necessario fare un po' di contesto, nel senso che l'autrice, che è appunto Victoria Law, ha oltre a un passato di carcerazione, anche un'estrazione, diciamo, sociale piuttosto modesta, e soprattutto diciamo, è una persona razzializzata. Secondo me, mettere insieme questi elementi ci fa capire perché la sua prospettiva sul carcere sia particolarmente interessante, no? Sì, tanto che Oltre. lei, scusami, prego, prego. Vai, vai. No, dicevo, tanto che lei ha dedicato proprio all'abolizionismo, per esempio, parte della sua produzione sia politica che saggistica. Assolutamente. E appunto già introducevi un altro tema, questo è sicuramente un saggio che si inserisce a pieno titolo all'interno della produzione saggistica statunitense, anche femminista, sul tema dell'abolizione carceraria, perché appunto un altro degli elementi, secondo me, di questo libro e del modo in cui appunto l'autrice scrive è che può essere considerato, secondo me, una lettura di genere del carcere, una lettura anche transfemminista della carcerazione. E questo, secondo me, è un altro elemento di pregio del libro, oltre al fatto di essere, appunto, come dicevi te, come dicevamo insieme, facilmente leggibile. Ha una struttura molto snella, dei capitoli brevi, ognuno dei quali affronta, diciamo, il tema della carcerazione e dell'abolizionismo, spezzettandoli in micro ragionamenti, ragionamenti più contenuti, che rendono, diciamo, più facile, a chi legge seguire il ragionamento e dove l'autrice ci vuole portare, no? Ora, diciamo, per partire un po' anche banalmente dalla struttura del libro, il libro è diviso in alcune macro sezioni, delle sezioni, diciamo, più generali, in particolare la prima e la seconda, e anche diciamo, le prime tre, che fanno un po' una fotografia del sistema di carcerazione statunitense. Sempre partendo appunto dallo sfatare i miti che si aggirano attorno alla carcerazione. E diciamo, questo è molto interessante notare che al di là dei miti che tradizionalmente, diciamo, che chi non ha letto può immaginare sul fatto che le prigioni rendano la società più sicura, sul fatto che è sufficiente riformare il carcere, non c'è bisogno di cambiarlo strutturalmente, eccetera, eccetera, ci sono poi una serie di miti che sono più interessanti, diciamo, che sono un po' controintuitivi, secondo me, no? Nel senso, da un lato alcuni sono molto molto relativi alla società e alla struttura, diciamo, di contesto statunitense, nel senso che una serie di miti sono relativi al fatto che in carcere le persone che vengono da un'estrazione sociale bassa possono accedere a tutta una serie di servizi che altrimenti sarebbero preclusi, e si fa riferimento in particolare al servizio sanitario, che come sappiamo, insomma, negli Stati Uniti è totalmente privato e diciamo fondato sulle assicurazioni, un sistema assicurativo. Quindi questo mi è sembrato molto interessante, ma diciamo ancora più che mi ha colpito, una cosa che mi ha colpito, non so come dire, sono quei miti da sfatare che sono controintuitivi anche rispetto alla nostra narrazione del sistema carcerario statunitense, la nostra percezione di questo sistema carcerario, in particolare rispetto al ruolo delle corporazioni private, no? Cioè si dice sempre che il modello statunitense di carcere è quello verso cui ci stiamo orientando, quindi un modello di carcerazione privatizzato, e invece l'autrice dice che non è questo il punto, cioè nel senso non sono le corporazioni private alla luce, diciamo, l'origine dell'incarcerazione di massa che colpisce le classi povere statunitensi, proprio perché la percentuale di popolazione carceraria detenuta in carceri private è la minoranza. È proprio la legge dello Stato e lo Stato in sé che hanno favorito nel corso del tempo una carcerazione di massa di particolari gruppi sociali, di particolari strati o classi sociali, se, insomma, per utilizzare propriamente il termine classe. E soprattutto l'altra cosa interessante è che l'autrice ci tiene a dire che la carcerazione di massa non è un elemento patologico del sistema carcerario, ma è esattamente l'obiettivo per cui il sistema carcerario è stato predisposto, ideato sin dall'origine, quindi come, diciamo, discarica sociale, come luogo in cui recludere tutta quella parte di popolazione ai margini, marginalizzata, resa marginale, recludendola prima che possa organizzarsi per alterare lo stato dell'esistente, no? Lo stato delle cose, gli equilibri sociali. Consideriamo anche che questo libro negli Stati Uniti è uscito nel 2021, ma le bozze del libro, diciamo, la chiusura del libro è avvenuta poco prima dell'omicidio di George Floyd. E quindi questo esce fuori nell'introduzione, l'autrice lo dice anche perché, diciamo, dopo la morte di George Floyd, un po' come evento apicale, no? Non so come dire, i temi dell'abolizionismo carcerario escono da una nicchia di ragionamento, da una nicchia di pensiero, smettono di essere etichettati automaticamente come dei ragionamenti utopici, un po' minano anche l'idea che del carcere ci sia bisogno, che il carcere sia un'istituzione necessaria e finiscono per entrare un po' nella dialettica politica un po' più mainstream, nel senso un po' più ampia, nel senso che poi appunto l'abbiamo visto con tutto il movimento Black Lives Matter, dopo la morte di George Floyd, in generale tutte le richieste di defunding della polizia, quindi di levare i fondi alla polizia per investirli piuttosto, no, in servizi in favore della comunità, proprio perché quei servizi possono permettere alle persone di evitare di finire in carcere. E questo è, diciamo, uno degli elementi proprio basilari dell'abolizionismo carcerario. Quindi, diciamo, questo libro si inserisce anche in un momento tutto sommato fortuito, in qualche modo, dell'abolizionismo carcerario statunitense. C'è una parte, tra l'altro, allora, i 21 capitoli hanno tutti quanti un titolo, no? Che partono da un'affermazione, che è la classica affermazione retorica, no? Sul perché il carcere serve, e vanno sistematicamente a smontare, appunto, lei va sistematicamente a smontare pezzo per pezzo. Poi la terza e la quarta parte sono molto interessanti perché vanno a raccontare un mondo che spesso viene poco raccontato. Primo, la terza parte è sulle persone invisibili dietro le sbarre, e quindi, no, si parla anche di chi subisce gli abusi, che si ritrova in certo modo, se si difende anch'esso in carcere, spesso e volentieri con chi commette l'abuso. E poi c'è, appunto, tra gli invisibili ci sono le donne, gli uomini trans e le persone razzializzate e via dicendo, perché lei affronta proprio tutta la complessità del mondo carcerario, andandosi a cercare anche, per esempio, il cosiddetto sistema di cura all'interno delle carceri per chi soffre di malattie psicologiche e non. C'è tanto in questo libro che ha una lettura, come dicevamo all'inizio, una lettura anche abbastanza agevole, semplice, chiamiamola sì, molto alla portata un po' di tutte e tutti, però la complessità la riesce comunque a tirare fuori passo dopo passo in maniera anche non indifferente. Era parecchio, non leggevo un libro sul carcere, forse perché il mondo americano è molto diverso dal mondo europeo anche per quanto riguarda la detenzione, però ci sono un sacco di informazioni, ecco. No, assolutamente, questo è anche il motivo per cui prima dicevo che al di là di come questa cosa venga fuori in maniera esplicita da parte dell'autrice, dice nel libro, se si vanno ad analizzare i contenuti, no, e anche diciamo le argomentazioni che vengono portate contro il sistema carcerario, questo secondo me può essere definito un libro transfemminista. Sicuramente ha una lettura intersezionale sul carcere, nel senso che andare poi a decostruire diciamo anche la figura del detenuto come appunto quella dell'immigrato, no? Come soggetto universale, che poi in realtà è un soggetto universale bianco, non bianco uomo, nel caso del carcere statunitense sicuramente non è bianco, però è uomo, in realtà finisce per nascondere, no? Come il carcere come istituzione, il carcere come dispositivo di oppressione colpisca in maniera specifica e in maniera più forte, diciamo, quei gruppi sociali che sono soggetti a una molteplicità di oppressioni. E quindi in questo senso si parla delle persone con problemi di salute mentale, si parla di persone trans, di uomini e donne trans, si parla anche delle persone che subiscono violenza. Questo tema lei lo racconta molto di quante donne finiscono in carcere perché reagiscono in maniera diciamo forte, in maniera forte alla violenza, autodifendendosi, è stato sicuramente, diciamo, una delle parti più dolorose da leggere per me, ma rientra assolutamente a pieno titolo appunto in una criminalizzazione dell'autodeterminazione, dell'autodifesa. Di cui appunto il movimento transfemminista, il movimento abolizionista parla da molto tempo. Abbiamo seguito, diciamo, varie vicende di questo tipo in varie parti del mondo, anche appunto in Sud America, anche con la radio, il caso di Iggy in Argentina, il caso di Estefano, anche comunque tutte persone lesbiche, trans, che finiscono in carcere nel momento in cui decidono di reagire. O hanno la possibilità di reagire, diciamo, a una violenza. E questo, diciamo, sicuramente è un grande tema. Così come un altro grande tema che viene, secondo me, affrontato in maniera intelligente in questo libro è quello di, insomma, di cercare di rispondere a una delle argomentazioni che strumentalmente vengono utilizzate più spesso per screditare qualsiasi possibilità abolizionista sul carcere, cioè che cosa ne facciamo degli stupratori e delle persone violente, no? Degli uomini violenti. Questa è, diciamo, una finta contraddizione a cui appunto si tenta di inchiodare sempre l'abolizionismo femminista e transfemminista, e mi sembra appunto che l'autrice riesca a entrare anche nel merito di questa complessità, diciamo, con un'argomentazione che è un'argomentazione abbastanza fondante dell'abolizionismo carcerario, cioè dimostrare anche dati alla mano, se dovesse servire, che il carcere non è una risposta alla violenza di genere, cioè incarcerare le persone che l'agiscono non è uno strumento che rende la società nel suo complesso libera da quel tipo di oppressione. Servono ben altre cose su cui puntualmente non si investe. Insomma, questo è sempre il solito discorso, l'abbiamo visto, insomma, anche in tempi molto recenti nel nostro paese, tutto il dibattito che si è aperto dopo l'ultimo feroce femminicidio che c'è stato, insomma, la risposta delle istituzioni è stata subito quello di approvare in fretta e furia l'ennesimo pacchetto sicurezza, l'ennesimo decreto legge che inasprisce le misure repressive e penali nei confronti di chi agisce violenza di genere, no? Senza in alcun modo di nuovo investire su quelli che sarebbero gli strumenti necessari, quindi strumenti culturali, di educazione, e un cambiamento appunto radicale dei ruoli di genere in questa società. Quindi questo sicuramente è un tema che in questo libro esce, e appunto, come dicevi te, nel complesso a me sembra un libro utile per chiunque voglia avvicinarsi al tema dell'abolizionismo carcerario, alle storture del sistema carcerario e a come immaginare una società senza carcere, cioè nel senso che è quello che un po' diciamo sempre, no? Che siamo contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. Questo è proprio un libro che parla del perché siamo contro il carcere e perché la società può vivere e può articolarsi in una maniera ancora più, diciamo, ben più solidale, orizzontale e funzionale senza il carcere. Sì, tra l'altro c'è anche appunto l'ultima parte che è dedicata proprio a come uscire dall'incarcerazione di massa e come andare verso appunto l'abolizione delle carceri. Un'altra delle parti interessanti è che è anche un argomento spesso di questa radio quando lei esce dalle mura delle carceri tradizionali per parlare della detenzione degli immigrati e delle immigrate. Nel dibattito qui in Italia spesso appunto raccontiamo dei CPR come veri e propri carceri, usiamo queste parole, se non quando lager. E lei lo racconta, no? Cioè, spiega più che racconta come questo, come all'interno anche del dibattito, spesso per quanto riguarda l'incarcerazione di massa e non si assente una riflessione sull'incarcerazione dei migranti colpevoli soltanto di essere appunto immigrati illegalmente negli Stati Uniti e quindi una sorta di reclusione civile non penale perché non hanno commesso reati da codice penale. Come succede poi per chi si ritrova appunto nei CPR in Italia e come raccontiamo spesso anche nei microfoni di Radio Onda Rossa. Assolutamente, cioè qui c'è proprio tutto un capitolo dedicato al perché quando si parla di carcere bisogna parlare anche di detenzione delle persone migranti, no? Immigrate. Sicuramente, diciamo, su questo gli Stati Uniti sono stati e continuano ad essere un faro, diciamo, per i governi anche europei, diciamo, per quanto riguarda la fortificazione delle frontiere, insomma, e sicuramente, diciamo, negli Stati Uniti e anche in Italia sono stati il primo baluardo di privatizzazione del carcere. In Italia, sicuramente la gestione dei CPR, che sono sì dei luoghi di detenzione amministrativa, ma comunque di privazione della libertà, sono, diciamo, state le prime strutture di detenzione date completamente in gestione a privati, no? E questo, diciamo, è un tema importante, è sicuramente il motivo per cui, per esempio, in Italia è impossibile, secondo me, parlare di detenzione senza parlare di detenzione amministrativa. Detto questo, sicuramente l'altro fattore di questa rimozione, costante di questo tema sta nel fatto che, diciamo, il migrante irregolare, viene un po' rimosso, diciamo, da quella che viene considerata la cittadinanza, nel senso è sicuramente uno dei soggetti che proprio in via principale vengono considerati come di scarto e quindi disponibili e dispensabili. Quindi è come se la detenzione di questi soggetti fosse un po', considerata un po' più legittima, di quella delle altre persone. E invece, diciamo, sicuramente nel campo dell'immigrazione, anche della detenzione amministrativa, vengono poi irrogati tutta una serie di dispositivi di controllo. In Italia basti pensare appunto alla privatizzazione, ma anche al lavoro gratuito, al lavoro volontario come forma di ripagare i costi, no? Che è una cosa che poi è stata, diciamo, estesa a tutta un'altra platea di soggetti. Basti pensare a chi, diciamo, gode in Italia anche di strumenti di integrazione al reddito, le casse integrazioni, insomma, tutta una serie di discorsi che poi si sono spostati dal campo dell'immigrazione anche al campo più ampio del parassitismo sociale, diciamo, di tutti quei gruppi sociali che in qualche modo godono del welfare pubblico. E sicuramente in questo capitolo l'autrice entra molto, molto nel merito. Ovviamente è un capitolo che è molto focalizzato sulle politiche migratorie statunitensi, non viene fatto uno sconto più o meno a nessuno degli esponenti politici anche più di spicco, anche chi diciamo ha cercato di presentarsi come portatore e portatrice di una linea nuova, una linea più mild, più diciamo mite sull'immigrazione. Ovviamente rispetto a una politica trumpiana sull'immigrazione, quindi proprio brutale e feroce, come è stato, insomma, raccontato anche in Italia. Però sì, assolutamente il dibattito sull'incarcerazione di massa riguarda anche le migrazioni, e in Italia non dobbiamo in alcun modo farci confondere dal fatto che i CPR non vengono presentati come luoghi di detenzione, come delle prigioni, perché sono delle vere e proprie prigioni. prigioni, sono dei luoghi di privazione della libertà personale, in cui si entrano delle persone al di là del codice penale, nel senso senza aver commesso un reato nominato nel codice penale, il reato per cui vengono recluse queste persone è l'aver attraversato delle frontiere. Frontiere ovviamente stabilite e fortificate dai governi europei, dalla Fortezza Europa, insomma, i discorsi che facciamo sempre anche dai microfoni di questa radio, direi. E l'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlavo, gli altri temi che secondo me in questo libro vengono molto fuori in maniera molto interessante, sono due, diciamo, da un lato un po' si ricollega a quello che dicevo, cioè anche il decostruire l'idea che ci sia qualcuno, che ci sia stato qualcuno nella politica americana mainstream, quindi istituzionale, che ha fatto veramente qualcosa per contrastare l'incarcerazione di massa. L'autrice, insomma, ripercorre le antiche glorie, diciamo, tra virgolette, anche di Biden, di Obama, di Hillary Clinton, insomma, appunto facendo vedere anche in una prospettiva storica come si è arrivati alla situazione attuale. E l'altro grande tema è quello del lavoro in carcere, cioè a cosa serve il lavoro in carcere, come viene pagato il lavoro in carcere, e anche diciamo un po' decostruire un altro mito, no? Che molto spesso è associato al sistema penitenziario statunitense, che in realtà l'incarcerazione di massa serva a avere manodopera a basso costo sottopagata. In realtà appunto l'autrice racconta quanto sia difficile accedere al lavoro in carcere, quanto riguardi una percentuale anche limitata della popolazione carceraria, e questo anche secondo me è un mito completamente controintuitivo, cioè l'obiettivo della carcerazione di massa è eliminare dalla società quelle parti di società stessa che non sono controllabili, che sono potenzialmente una polveriera sociale, che sono lo scarto della società. Secondo me un po' ci si deve attestare su questo obiettivo che è semplice nella sua, non so come dire, ferocia. Ecco. Guarda, sei stata super esaustiva anche nel raccontare questo libro, perché, anzi poi neanche nell'invitare a leggere questo saggio, perché è davvero un saggio molto interessante, che presenta appunto delle curiosità e delle informazioni non affatto scontate, soprattutto per noi che viviamo dall'altra parte del globo. Concludendo, se possiamo consigliare altre letture a questo punto a tema a chi ci ascolta, che questa è un po' la domanda che facciamo a qualsiasi nostra ospite, non per forza a tema, ma in questo caso, visto oggi la parte dedicata all'abolizionismo e alle carceri nella trasmissione, rimaniamo sul tema perché ci sono diversi testi, a parte Angela Davis, che è un po', no, forse la più famosa tra le autrici ad aver scritto sul carcere, testi appunto sull'abolizionismo in carcere. Ci sono parecchie cose da andare a cercare che spesso uno magari neanche conosce, tipo me che neanche conosco, quindi consiglia a chi ci ascolta. Guarda, in realtà mi è un po' fregato perché ovviamente, cioè, nel senso, io in questo periodo, insieme a questo, avevo letto il nuovo libro che è stato pubblicato appunto a firma non solo di Angela Davis, che però appunto penso che presenterete nella stessa puntata di oggi di Tabula Rasa. Però diciamo in realtà voglio fare una cosa un po' una mandracata, nel senso che secondo me si può esulare dal tema strettamente carcere. Vabbè, a parte che leggendo questo libro c'è poi tutta una bibliografia che secondo me è assolutamente interessante da andare a vedere sia su questo libro che su quello di Angela Davis, ma diciamo che sicuramente se dal tema strettamente carcerario ci si sposta un po' al tema della giustizia trasformativa e quindi diciamo del superare non solo l'istituzione carcere, ma la logica che sta dietro al punitivismo carcerario. Sicuramente due libri che in modo diverso mi hanno colpito ultimamente, su cui insomma ho ragionato un po', anzi tre libri mi sento di consigliare. Beh, sicuramente uno è Sarah Schulman, quindi Il conflitto non è abuso, l'altro è il libro di Giusy Palomba, insomma la trama alternativa. Che abbiamo già presentato qualche settimana fa. Esatto, e poi c'è un libro che diciamo non è stato tradotto in italiano, però insomma per chi parla inglese è un altro libro che viene dagli Stati Uniti, è il libro di Kai Cheng Tom che si chiama Spero che sceglieremo l'amore, in inglese I Hope We Choose Love. Anche lei è una scrittrice trans razzializzata che parla appunto della giustizia trasformativa e dell'utilizzo della giustizia trasformativa come strumento nel gestire i conflitti all'interno delle comunità politiche. E comunque, diciamo, è un bellissimo libro che mi sento di consigliare. Grazie Marta, ti ringraziamo tantissimo di questo contributo. Ricordiamo che abbiamo parlato di Le prigioni rendono la società, scusate, più sicura, Victoria Law, edizioni Mimesis o Mimesis, onestamente non lo so, penso Mimesis, ma sicuramente sto, Mimesis. infatti sicuramente magari starò sbagliando. E un abbraccio Marta e ancora grazie. Grazie, ciao a tutte e a tutti. Ciao ciao.